Perché mi dice 02? Ah, perché ce n'è già un altro, secondo me. Allora, buonasera, siamo arrivati, cosa devo dire, no? In sospeso non c'era nulla, spero, quindi. Allora, siamo arrivati alla lezione sulla genealogia. Questa parola che abbiamo evocato così a lungo si presenta finalmente, no? L'abbiamo già evocata si è già presentata, l'abbiamo letta, l'abbiamo vista emergere in una pagina dell'ordine del discorso, e però adesso dovremmo esaminare questo testo invece del 71, che si chiama Nietzsche, la genealogia della storia, quindi torna. Cominciamo a leggere, vediamo. È un testo molto breve, quindi dovremmo, certo che se prendo il libro sbagliato, certo che se non ho messo neanche cera, ma non l'ho trovato io. È un testo che è diviso in 7 capitoletti o paragrafi, come lo vogliamo chiamare. Cominciamo a leggere l'inizio del primo. La genealogia è grigia, meticolosa, pacientemente documentaria. Lavora su pergamene ingarbugliate, raschiate, più volte riscritte. Salto un po', parla di Paul Re, poi vi dirò vagamente chi è, se non lo sapete. Salto all'inizio del secondo paragrafo. Si trovano in Nietzsche due usi della parola Ursprung, accidenti. Il primo non è caratterizzato, si incontra in alternanza con termini come Entstehung, Herkunft, Abkunft, Geburt. Bisogna sapere il tedesco qua per capirci qualche cosa, Foucault sapere il tedesco. Allora, mi fermo, ragazzi, perché ho il dubbio che il Nietzsche di cui parla, cioè, questa roba si chiama Nietzsche, la genealogia, la storia. Comincia con una frase che dice la genealogia è grigia, meticolosa, pazientemente lavora su pergamene ingarbugliate, raschiate, riscritte, poi fa tutta una roba su delle parole tedesche. Sì, vabbè. Ho il dubbio che il Nietzsche di cui parla Foucault non sia lo stesso Nietzsche che conosciamo noi, o forse c'è più di un Nietzsche. Allora direi che cambio, deciderò così. Prima di affrontare un testo che parla di Nietzsche bisogna vagamente forse avere una mezza idea di chi sia, di che cosa abbia fatto questo signore tedesco vissuto tra il 1844 e il 1900, ma la cui vita, diciamo, intellettuale si ferma una decina d'anni prima, forse anche 12 anni prima. Nietzsche è uno dei filosofi più difficili da cogliere, come peraltro Foucault, come altri in parte, come Kierkegaard, perché non inaugura, prima di lui c'è Lichtenberg, eccetera, sono comunque nella filosofia. Nietzsche introduce, a partire da un certo periodo, uno stile che è poco filosofico, o è poco filosofico nel modo in cui noi parrucconi intellettuali e studiosi, topi di biblioteca, non è il mio caso, ma insomma siamo abituati a considerare la filosofia. Nietzsche scrive dei libri intanto fiammeggianti, polemici, eccetera, e poi nei suoi libri maggiori, anche nello Zarathustra, che poi è quello più famoso. Ma se sappiamo, siamo tutti gli altri, da un certo punto in poi, da umano troppo umano in poi, quindi dal 1878 in poi, è uno stile aforistico, cioè sono delle brevi o lunghe, a volte anche lunghe di 2-3 pagine, ma sono degli enunciati, non in senso pocoltiano, delle proposizioni più o meno autoconclusive che enunciano una tesi in modo però incisivo, perché lo fanno in poche righe, magari in una pagina e mezzo, ma devo... Certo che c'è un legame tra l'una e l'altro di questi aforismi, però insomma il modo in cui si presenta questa... Da dove veniva Nietzsche? Vabbè, allora questa è una delle cose. Poi l'altra, diciamo, è la prima difficoltà a ricostruire. Quindi questo vuol dire che non possiamo dire che esiste un libro che espone la filosofia nicciana o una parte della filosofia nicciana meglio, voglio dire, di altre. Con Kant siamo relativamente tranquilli, andiamo, sappiamo la teoria della conoscenza e la critica della ragion pura, la morale, l'etica, la morale è la critica della ragion pratica, l'estetica è qualcosina di più, è la critica del giudizio, poi le altre cose no. Hegel non ne parliamo, Schopenhauer praticamente il mondo, insomma ognuno ha o un'opera riassuntiva o un opus magnum o un insieme di cose, magari dovete metterle una dietro l'altra, però con Nietzsche è impossibile fare questo lavoro. Per capire quello che ha detto Nietzsche bisogna andare, ahimè, ve lo dico per triste, per rispetto personale, perché mi sono rimesso a rileggere quello che ho già letto, a leggere quello che non ho mai letto, a cercare di strutturare un po', non ho evidentemente finito per oggi, ma sarebbe stato anche assurdo pensare che finissi, però insomma, andare a vedere quasi tutto quello che ha scritto in vari momenti della sua vita, cercare di capire, sappiamo, ovviamente abbiamo delle guide che ci danno una mano, eccetera, eccetera, ma... allora, quindi questa è la prima, come dire, difficoltà. La seconda difficoltà è che Nietzsche è un grande distruttore, è la persona che nello sviluppo, insomma, del discorso, come dire, filosofico, è quello che probabilmente ha fatto a pezzi il maggior numero di concetti tradizionali della filosofia. Quello di morale, quello di conoscenza, quello di... l'altra cosa che bisogna, però forse allora, Nietzsche non era un filosofo di formazione. Nietzsche non ha studiato filosofia all'università. Nietzsche era un filologo. La sua passione era la filologia. E della filologia era realmente appassionato e la amava moltissimo da giovane. Come amava, da un po' meno giovane, insomma, appena ha incontrato un filosofo, Schopenhauer, la sua opera, naturalmente non mi ricordo in quanto tale, e quando ha incontrato un musicista, Richard Wagner, molto più vecchio di lui, ma all'epoca già, insomma, eccetera, lui si è innamorato di queste, ha aggiunto questi due amori, Schopenhauer e Wagner, all'amore per la filologia, e per un po' se li è portati avanti. Ma attenzione, l'esordio di Wagner come filosofo e come filologo insieme, esordio che non ci è tantissimo utile per capire di Nietzsche, se adesso confonderò i nomi come sempre perché i miei circuiti neuronali impazziscono. Allora, quando Nietzsche scrive la sua prima opera insieme di filosofia e di filologia, che è un'opera che non ci conviene considerare tanto rappresentativa del pensiero del Wagner maturo perché verrà molto superata, anche se purtroppo è una delle più famose ed è una è quella diciamo che lo ha inchiodato un po' a questa, cioè c'è poco da fare, insomma, i manuali e senza offesa per i manuali, come senza offesa per le persone che leggono i giornali dal parrucchiere, ma insomma sono sempre così, cioè poi immiseriscono le cose, quindi tutti voi immagino che saprete ripetere abbastanza quella, insomma, questioncina dell'Apollino e del Dionisiaco, che lui, eccetera, eccetera. Vabbè, allora poi non è proprio così, ma insomma bisogna andare a vedere che cosa ha detto davvero. Però quella è un'opera nella quale intanto vedete che è una specie di tesi laurea, insomma di dissertazione, lui non, praticamente non l'ha mai fatto dottorato, però a 25 anni era già in casa, perché ovviamente era uno e però in questa opera comunque c'è già una sorta di abbandono del primo di questi amori, cioè della filologia classica, dell'impostazione classica della filologia. Tanto è vero che il mondo della filologia, quando viene pubblicata quest'opera, la guarda, aborrisce, dice: chi è questo pazzo, come ti permette di dire questa cosa? Le cose sconvolgenti di questo libro sono ben più, cioè la storia del Dionisiaco e dell'Apollineo, tutto sommato, era una roba che non l'ha detta lui per primo, cioè si va a vedere da Burckhardt, altri, insomma, certo lui l'ha messa in un certo modo, è una polemica contro una particolare concezione della cultura greca, quella di Winckelmann principalmente, ma molta altra gente nell'Ottocento pensava già che la posizione proto-romantica di Winckelmann della cultura greca come la cultura dell'equilibrio, dell'armonia, eccetera, eccetera, fosse una cosa debole, non fosse difendibile. Quindi Nietzsche si è limitato a ricordare che nella cultura greca c'erano più che due componenti diverse, due facce della stessa, lui diceva che Apollo e Dioniso sono come le due facce di un foglio, insomma, e la tragedia, perché ovviamente perché la tragedia viene posta sotto sotto l'egida, sotto il nome, sotto la protezione, sotto l'emblema di Dioniso, perché è come dire, l'opera nella quale Dionisiaco e Apollineo, cioè il dispiegamento, per usare un termine che all'epoca Nietzsche non usa ancora, ma che usa assolutamente, il dispiegamento della potenza senza limiti, che è il dionisismo, e l'ingabbiamento della potenza dentro le istituzioni e dentro le forme, che è l'Apollineo, convivono. Ma non è tanto questa la cosa più, è quella che appunto, ripeto, poi come dire, i professori, diciamo, di liceo prediligono, perché è quella più tranne il mio, devo dire, che però purtroppo a suo tempo non batté abbastanza su Nietzsche per interessarmi troppo. Certamente l'essere Zarathustra, come voi sapete, non ci capì nulla, come ormai avete già capito, che potevo far meno di leggere tutte, perché potevo cominciare dopo i 40 anni e forse qualcosa capivo. Di tutte le cose che ho letto quando ero piccolo non ci ho capito mai un accidente. Comunque ho letto Zarathustra, certo, anche perché avevo un professore così. Le cose più terribili della tragedia sono altre, sono l'asserzione che Socrate è il distruttore della filosofia. Non gli potete andare a dire a questo, è su questo che i filologi si sono incazzati con Nietzsche. Non tanto perché gli ha detto Apollo, Dioniso, quello forse era lei, ma ha osato mettere in dubbio uno dei dogmi fondamentali della ricostruzione storica della filosofia, attenzione, come poi, non solo prima, ma dopo Hegel, non ne parliamo, insomma, cioè nel modo in cui Hegel aveva ricostruito la storia della filosofia, ovviamente Socrate non era il ma in qualche maniera quasi il fondatore, insomma, no? Quindi c'è già nella nascita della filosofia una presa di posizione per i sofisti e contro Socrate, a favore dei sofisti, cioè di coloro che hanno destrutturato per primi il linguaggio, lo hanno sezionato, lo hanno analizzato, hanno mostrato, per dirla con Foscolo, di che lacrime grondi e di che sangue lo scettro ai regnator, se non lo scettro ai regnator, la cattedra ai filosofi, ai professori di insomma, filosofia. Poi lui ha avuto tutta una serie di guai di salute, eccetera, eccetera, ha avuto una salute. Salute vuol dire, era uno di quei temperamenti che nell'Ottocento si chiamavano, si definivano nervosi. Se qualcuno di voi ha qualche vaga familiarità con uno di quasi un secolo dopo, con Antonin Artaud, un secolo, poco più di 60 anni dopo, sono molto simili lui e dal punto di vista del, hanno gli stessi casini, una sintomatologia molto insomma simile, sono quelli con i nervi a fior di pelle, sono quelli che hanno le crisi eccetera eccetera. Poi c'è la come dire, malattia insomma, come dire, finale eccetera eccetera. Poi c'è la seconda grande opera diciamo di Nietzsche, che però anch'essa è ancora un Nietzsche acerbo, è ancora un Nietzsche che non ha ancora capito, però i conti con la filologia, cioè i conti con le ricostruzioni ad usum delfini, cioè ad usum glorificazione dell'Occidente, quanto è bravo l'Occidente che ha, insomma, diciamo, hegeliane di fondo, insomma, l'ha già fatta. Ora comincia a fare i conti e la seconda grande opera si chiamano sono le considerazioni inattuali e sono quattro, lui ne aveva progettato di scriverne in realtà 7-8, forse anche di più, non mi ricordo, ma ne ha poi scritte e pubblicate solo quattro, fra il 1874, quindi siamo già 30 anni circa. La nascita la pubblica nel 72, quindi ne ha 28 di anni. Nel 64 ha 30 anni, è preside di facoltà, poi l'anno dopo si deve dimettere praticamente perché sta malissimo, però insomma. E quell'anno nel 73 esce la prima considerazione inattuale su David Strauss, su cui non mi fermerò perché adesso sarebbe troppo lungo, sennò vabbè. La seconda, che invece sarà importante questa sera, si chiama Sull'utilità e il danno della storia per la vita, è già un titolo del genere, capite che anche quello è destabilizza abbastanza. La terza si chiama Schopenhauer come educatore, ed è l'ultima volta nella sua vita in cui lui sta ancora dalla parte, in qualche maniera non è già più seguace di Schopenhauer, ma non si presenta ancora. E la quarta si chiama Richard Wagner a Bayreuth, ed è la prima, l'inizio della, diciamo, rottura con Wagner. Che cosa aveva visto Nietzsche in Wagner e in Schopenhauer che lo avevano così attirato, che gli avevano fatto credere che fossero due persone a cui lui poteva ispirarsi? Beh, naturalmente Schopenhauer era l'unico filosofo sino a quel momento, perlomeno sulla scena tedesca, che costituisse un'alternativa ad Hegel, e quindi era l'unico anti-hegeliano che c'era sulla piazza, bisogna pigliarsi questo, insomma, che devo fare. Era chiaro che, diciamo, l'hegelismo non era cosa per lui, e Wagner gli era parso per un breve periodo, lui è andato a trovarlo a Bayreuth, eccetera, era innamorato della sua musica perché gli pareva che la sua musica fosse una musica filosofica, cioè che sapesse esprimere nelle note una serie di contenuti che erano quelli che interessavano a lui. Nietzsche forse quando si legge Zarathustra, quando sei troppo giovane, eccetera, si corre il rischio di pensare che fosse un uomo senza, diciamo, con poco sentimento, non è affatto vero, era sentimentalissimo, però certamente questo sentimento doveva essere, come dire, colorato, non indirizzato, ma colorato dei colori del suo fuoco, non di. Insomma, gli pareva che. Poi certo, va a Bayreuth. Va a Bayreuth per l'inaugurazione del teatro che Wagner si è fatto costruire, finanziato dal re di Prussia. Pensate che la Germania è unificata da poco più di 10 anni, la Germania si è unificata nello stesso anno in cui si è unificata l'Italia, solo che ovviamente noi siamo unificati attorno al Piemonte, nessuno si offenda, anzi in un verbo loro sono unificati intorno alla Prussia, questo evidentemente spiega una serie di differenze piccole e poco importanti tra la Germania e l'Italia. Comunque, Wagner si fa costruire questo grande teatro, eccetera, eccetera, Nietzsche arriva lì e dice: ma questo è pompiere. Questa è l'arte pompieristica, questa è arte di regime, questa è... E allora all'improvviso ha un riorientamento gestaltico e all'improvviso credo che forse i maestri cantori, non dico adesso l'opera che è stata scelta, l'opera di Wagner, forse era Tristano, il Parsifal, grazie, il Parsifal. Sente il Parsifal e improvvisamente quella musica che fino a 2 anni fa, fino all'anno prima, eccetera, gli era sembrata così densa, così pregna, così gli appare per quello che probabilmente invece è, cioè, o perlomeno ci scorge dentro quella componente di retorica, di regime, e soprattutto la cosa che va, che insomma Nietzsche odiò, più, su cui si distanziò per tutta la sua vita, una musica in qualche maniera consolatoria, che risarciva il borghese tedesco verso il quale negli anni successivi Nietzsche avrà parole di fuoco, contro la piccineria, contro della grande e della piccola borghesia tedesca, usando un vocabolario che poi lo farà scambiare, ahimè, purtroppo dalla sorella per primo e successivamente da una serie di altre persone per un precursore del nazismo. La sorella non è poi vissuta tanto a lungo da vedere il nazismo, però. E comunque, siccome nel vocabolario di Nietzsche poi c'è molto questa diciamo dicotomia inferiore-superiore, nobile plebeo, eccetera, eccetera, ma allora tu sei un difensore dell'ancien regime, del vecchio ordine contro il nuovo. Non è affatto vero, se ci sono dei pezzi in cui addirittura dice che lui si augurerebbe che in qualche maniera vincesse il socialismo, contro il quale non nutriva alcuna simpatia, ma non virgolette da destra, virgolette da sinistra, cioè perché, come dire, capiva che cosa c'era nelle posizioni del movimento socialdemocratico, del movimento operaio, come dire, dell'epoca, quale subordinazione culturale ci fosse alla cultura dominante. Quando lui dice dominante, in realtà quando lui dice superiore, nobile, eccetera, si riferisce sempre a un atteggiamento dello spirito in cui conta poco la classe sociale, cioè quello che da un punto di vista chi ha vinto, chi ha perso, chi esercita il potere, chi no, non c'entra ben poco tutta questa cosa. Niente, insomma, va bene. Quindi rottura con Schopenhauer, perché Schopenhauer considera la volontà una malattia, mentre per Nietzsche nella volontà c'è l'unico modo in cui l'essere umano può affermare, diciamo, se stesso. Rottura con Wagner, perché è un musicista tronfio e retorico e non esprime, diciamo, nell'arte il rinnovamento. Comincia il Nietzsche maturo, comincia nel 1878 con un'opera che si chiama Umano troppo umano, che è la prima opera nella quale che viene stesa con questo stile che vi ho detto prima, aforistico. Poi segue Il viandante e la sua ombra, che verrà ripubblicato quasi dieci anni dopo come secondo volume di Umano troppo umano, e quindi pubblicati insieme. Poi Aurora, poi La Gaia Scienza. Nell'83 comincia la stesura della sua opera più strana e più impegnativa, non so, ma insomma, però che fu una certa svolta per lui, perché lì cominciò. Adesso poi vi farò una breve, non posso farvi, se no il tempo è troppo, non posso farvi un'esposizione della filosofia di Nietzsche. Adesso parlerò ancora non più di 10 minuti di Nietzsche, perché sennò. Comunque, insomma, Zarathustra viene composto nella la prima parte e la seconda parte nel 1983, la terza e quarta parte nell'85, e se non vado errato sono pubblicate più o meno nell'ordine in cui vengono composte a pezzi. Nell'86 Al di là del bene e del male, nell'87 un bellissimo e precisissimo e bellissimo frammento che va sotto il nome, il frammento di Lenzer Heide, sul nichilismo europeo, in cui c'è per la prima volta la cosa del cavalierismo, poi nel 1888 comincia a stendere l'opera a cui avrebbe voluto, probabilmente quella forse sì sarebbe stata la sua opera riassuntiva in qualche modo, che era La volontà di potenza, lo comincia a Torino. Mentre scrive La volontà di potenza però gli escono tre opere di getto in quello stesso anno, nell'88, quattro addirittura, che sono Il crepuscolo degli idoli, L'anticristo, Nietzsche contro Wagner, che è la ripresa della cosa, e Ecce Homo, che è una straordinaria e acutissima autobiografia intellettuale in cui riprende pezzo per pezzo tutte le sue opere, eccetera, eccetera. Però, ahimè, purtroppo, l'anno dopo, la malattia, cioè quello che noi non abbiamo altro termine che quello generico, abusato, frusto e inadeguato di follia per diciamo descrivere, però è una vera follia, basta leggere l'epistolario degli ultimi 10 anni, insomma si capisce che era veramente andato molto molto probabilmente perché la prima cosa, quella forse fondamentale per cui Nietzsche è diverso da Hegel, è che è per questo che Nietzsche è stato così tanto amato dalle avanguardie artistiche dopo, perché in Nietzsche la filosofia non era separata dalla vita. La sua filosofia era la sua vita. L'investimento che lui aveva fatto e lui in molte anche delle opere, in molte dei commenti che fa, eccetera, lui è consapevole di essere debole, malato, di avere questo problema, di girare per tutta l'Europa, è stato moltissimo ovviamente in Italia, a Genova, a Messina, dove ha scritto delle curiose poesie, forse non sono granché le sue poesie di Nietzsche, però insomma sono di Nietzsche, quindi in qualche maniera uno la legge con quella cosa lì. E poi vabbè, insomma, Torino, che è la sua città, perché è quella in cui gli scoppia già la crisi, quindi vabbè. Muore nel 1900, dopo essere stato prima con la madre, poi dopo la morte della madre lo prende in casa la sorella. La sorella Elisabeth ha sposato un antisemita insopportabile che Nietzsche odiava quando stava bene. L'opera di Nietzsche è costellata di attacchi violentissimi contro l'antisemitismo, contro gli antisemiti, contro le cose, come abbiano fatto i nazisti a rivendicare come loro uno che ha parlato in modo, ma così, voi dovete leggerlo, è tremendo, insomma. No? Invece lei, la sorella, è la prima che comincia questa opera di mistificazione colossale che cerca di far passare Nietzsche per un antisemita, anche se non è stato, ma comunque per un sostenitore del pensiero tradizionale, quindi della restaurazione, tutte robe con proprio Nietzsche è l'opposto, esattamente l'opposto. La cosa però gravissima che fa questa, come dire, sorella è che mette le mani sullo scartafaccio e su tutti gli appunti e su tutte le cose che erano i materiali preparatori per quest'opera che è La volontà di potenza, e la pubblica, rimaneggiata da lei e montata in modo da diciamo l'edizione della volontà di potenza che ha girato per tutta la prima parte del Novecento è un falso, è una operazione, come altro dire se non comitevole proprio, di rovesciamento totale delle cose. Quando Colli e Montinari negli anni 50, due italiani, stabilirono l'edizione critica delle opere di Nietzsche, la quale comparve prima in italiano che in tedesco, poi comparve in tedesco, ma sempre curata da loro, da questi due Colli e Montinari, e fu la grande rivelazione di una piccola nuova casa editrice di ex einaudiani non propriamente marxisti, che è l'editore Adelphi. Quando questa cosa, ovviamente nelle opere complete di Nietzsche e di Teodoro Camoranzetari la volontà di potenza non c'è perché Nietzsche non ha mai scritto nessun'opera fatta così. voi dite, vabbè, allora il povero Benjamin, invece che gli hanno pubblicato Parigi capitale del XX secolo, ha una storia un pochettino diversa. E comunque anche quando Tindebaum in Germania e Agamben in Italia hanno pubblicato Parigi capitale, hanno pubblicato quelle quattro robe che erano già scritte, e poi semplicemente di seguito tutto l'elenco dei materiali che Benjamin aveva raccolto. Adesso dopo ci sono alcune edizioni che girano della Volontà di Potenza, la più famosa è quella curata da Maurizio Ferraris, un'altra è stata curata da uno che non mi ricordo per la mia società 2-3 anni fa. Sono diversissime l'una dall'altra, perché si può fare quello che si vuole, cioè si può prendere l'altra, perché vuol dire non era una cosa. Nelle opere complete di Nietzsche tutti i materiali della Volontà di Potenza ci sono, ma sono compresi nei frammenti postumi 1887-1890, fino a quando lui poi, da un certo punto poi ha smesso. Allora, le fasi le abbiamo dette. L'aforisma e diciamo la poesia, ve l'ho detto, l'unità della filosofia e della vita, ve l'ho detto. Non si può cercare altro che dei temi in Nietzsche che attraversano tutta l'opera, che si sostanziano certamente anche in prese di posizione, insomma, però ripeto, non si può fare. Allora, questi temi, io qui seguo un libro, adesso prima di dirvi questo, perché comunque sia, dopo la morte, ma anche subito, insomma, la riflessione di Nietzsche si polarizza su due, come dire, posizioni principali, spesso non in contraddizione. Una, quella del suo preteso carattere di pensatore tradizionale e quindi diciamo sostenitore della destra. La seconda è quello di rappresentante di quello che prima Leibniz, poi Horkheimer, Adorno, eccetera, chiamarono l'irrazionalismo. Lukács prima di tutto, prima Leibniz e Lukács in qualche maniera, chiamarono l'irrazionalismo. Ora, l'irrazionalismo, con tutto il bene che possiamo volere, con tutto il rispetto che possiamo avere per i filosofi e gli storici della filosofia che hanno utilizzato questa categoria, scusate, che è una bufala. È una bufala. Che cosa vuol dire l'irrazionalismo? Cioè, etichettare un pensatore, una posizione, in genere, come irrazionalista è possibile solo a patto di coltivare una concezione, scusate, prendo il termine il prestito da un altro campo, come una concezione proprietaria della ragione, come se la ragione fosse una sola possibile. Allora, c'è quella ragione, allora Horkheimer e Adorno diranno che l'unica ragione possibile è quella è quella marxista, è quella marxiana. Leibniz e Cassirer diranno che è quella kantiana, però questa è la ragione. Tutti i pensatori che non si adeguano, che sono fuori da questo letto di Procuste della allora loro sono irrazionalisti. Ma dove sta? Dove sta? Cioè, chi l'ha detto che come dire, che il concetto di ragione sia così normativo, sia così fisso, sia così, capite i temi facoltari, capite che insomma era ovvio che insomma, poteva essere interessato a un filosofo come questo. Allora, i due grandi passaggi, secondo me, questa poi vi datela come volete, altri vi potranno dire altro, diciamo, i due passaggi attraverso i quali passa nel Novecento una, non chiamiamola prima mutazione, una lettura più equilibrata, diversa, eccetera, di Nietzsche, sono, secondo me, sbaglierò, fondamentalmente due. La prima è l'interpretazione di Heidegger della metà degli anni 30, grosso modo fatta in vari corsi, in alcuni saggi poi pubblicati e raccolta successivamente, non so se dopo la morte, no, forse era ancora vivo, credo, nel 48 credo che escono, mi fa a occhio. Vengono raccolti tutti in un libro che non vi ho portato qua questa sera perché è enorme, che si chiama Su Nietzsche, appunto, no, si chiama Nietzsche, senza su Nietzsche. Io trovo discutibile la tesi di Heidegger, cioè che permea tutto, cioè, come dire, questo libro, però capisco perché Heidegger l'ha denunciata, non c'è niente di male, era un modo di portare l'acqua al suo, come dire, mulino. Heidegger era convinto di essere lui, colui che stava demolendo gli ultimi bastioni della metafisica. Non è vero che non poteva tollerare di non avere nessun precursore, probabilmente gli sarebbe andato bene avere un precursore, ma non uno come Nietzsche. Quindi, scusate, io ve lo dico così, io non sono abituato a essere diplomatico. Quindi Heidegger, in qualche maniera, deve sostenere la tesi che il superamento della metafisica di Nietzsche sia stato illusorio e che Nietzsche sia in realtà l'ultimo rappresentante della grande metafisica europea. È una cosa, non è una tesi fuori dal mondo, eccetera. Io non penso che sia giusto, insomma. E comunque, già con questa cosa, l'opera di Nietzsche toglie, il Nietzsche di Heidegger toglie il dibattito su Nietzsche dalle secche, razionalismo, irrazionalismo, così, insomma, perché dice, no, guardate, uno. L'altro, ragazzi, tutte queste cose sono tutte fatte prima che si conosca l'opera di Nietzsche in maniera filologicamente corretta, perché Colli e Montinari ancora sono dei ragazzini quasi, no, sto, gente nata negli anni 20 più o meno, quindi, o anche prima, però insomma, ancora non hanno fatto questo grande lavoro che poi faranno negli anni, diciamo, 50. Il secondo libro è quello di Deleuze. Deleuze pubblica nel 61, quindi abbastanza giovane, un libro che si chiama Nietzsche e la filosofia. Nietzsche e la filosofia. Il quale ha un'impostazione totalmente diversa ci mancherebbe altro, da quella di Heidegger, ed è, per quello che ne so io, e può darsi benissimo che mi sia sfuggita, però insomma, da quello che ho letto io, cioè su Nietzsche, e vi assicuro che nell'ultimo mese ho letto un po', insomma, è l'operazione di non so bene che termine usare, perché non è che mette ordine, di tematizzazione del pensiero di Nietzsche, meno rigida e meno, poi ce ne state altre dopo che sono andate più, e in realtà, a parte queste due, allora, io praticamente adesso in questo breve riassuntino che vi farò seguirò prevalentemente il libro di Deleuze del 61, che sicuramente Foucault ovviamente conosceva. In realtà le cose più belle e più interessanti scritte su Nietzsche in quel periodo, cioè a cavallo del secolo e nei primi anni 60, non sono libri, non sono opere di filosofi, o perlomeno non di filosofi così tradizionali come li conosciamo noi. Ve ne citerò solo due, insomma, e sono due persone che non a caso di cui Foucault parla molto quando è giovane, anche dopo, insomma, li avete già sentiti citare in questo corso. Uno è Bataille, che scrive un Sur Nietzsche. Il libro di Bataille su Nietzsche in realtà non è un commento a Nietzsche, è un libro buffo, molto bello, come quasi tutti i libri di Bataille, insomma. Consiste in una serie di diari scritti di Bataille degli ultimi anni di guerra in Francia, quindi 43-44. Racconta la sua vita, la sua storia d'amore con questa K, che non ho capito chi sia, ma poi mi leggo meglio, ragazzi, sono un sacco di robe che non so, ammetto la mia ignoranza su un sacco di cose. Poi c'è una piccola parte iniziale, una serie di appendici in cui anche Bataille ovviamente combatte contro questa cosa del Nietzsche nazista, eccetera, eccetera. Quindi è un tentativo di, come dire, applicare Nietzsche alla propria vita, alla propria vita. L'altro, su cui posso dirvi poco perché non l'ho ancora neanche finito, però siate indulgenti, insomma, ma non potevo leggere tutto invece, no. È di Klossowski e si chiama Nietzsche e le Cercle Vicieux, Nietzsche e il Circolo Vizioso. È una, a quello che ho capito, una coraggiosissima interpretazione dell'ultimissimo Nietzsche, quindi degli idoli dell'anticristo, eccetera, e anche delle lettere, del periodo della follia, in cui Klossowski, con una cosa che solo lui era in grado di fare, insomma, cerca di estrarre dei nuclei, scusate ma devo dirlo, di ragionevolezza dal marasma di questo episodio veneziano. Certo, su questo non posso dare, però è affascinante la questione, però non l'ho ancora finita, quindi non so bene come andrà a finire. Può darsi che quando l'abbia poi finito ve lo dirò. Allora, seguendo grosso modo seguendo Deleuze, poi ci vuole poco, perché insomma diciamo le grandi parole di Nietzsche è chiaro quali sono, insomma, sono contro la dialettica, quindi contro tutta la tradizione che da Hegel alla destra hegeliana, Bauer e in parte anche Stirner, la sinistra hegeliana, prima Feuerbach e poi Marx, ha influenzato il filone maggioritario della filosofia dell'Ottocento, quella contemporanea a Christian Nietzsche. Cos'è che non piace a Nietzsche della filosofia? Della sua dialettica, la truffa, secondo Nietzsche, del lavoro del negativo, cioè il fatto che la dialettica presupponga una sorta di rovesciamento, di torsione della negazione, la quale nel generale disegno, bla bla, eccetera, eccetera, improvvisamente riveli, dice, ah no, ma allora negare questa cosa voleva dire in realtà porre qualche altra cosa. Quindi questo continuo scambio, che in cui, per ritorcere contro Hegel una sua famosa battuta, in ultima analisi diventa quella sì davvero una notte in cui tutte le vacche sono nere, insomma. Perché se ogni volta che io negando qualcosa, ma nego qualcosa, quindi gli faccio una negazione, allora questo vuol dire che la posso rimettere così e vado avanti. Quindi questo è il lavoro del negativo. Nietzsche fa finta di essere un po' più ingenuo e dice, ma ragazzi, la negazione è negazione. Dove sta scritto che negando qualcosa si afferma qualcos'altro? Se affermo qualcos'altro lo dico che affermo qualcos'altro, ma se nego, non ci sono fissi, nessuno mi può. E quindi Nietzsche è il filosofo dell'affermazione, non della ritorno. A Nietzsche interessano i momenti e le attività nelle quali l'uomo afferma qualcosa, non nelle quali l'uomo nega. La negazione per Nietzsche è sempre un momento regressivo, è sempre un momento di ritorno indietro, è sempre un momento quindi contro la dialettica. Nichilismo. Sul nichilismo bisogna, adesso non la posso fare lunga, adesso ripeto, però bisognerebbe dire. Il nichilismo è la storiella dice i nichilisti, allora il termine ovviamente viene dai rivoluzionari russi, i quali si diedero orgogliosamente questo nome per dire distruggiamo tutto, bla bla, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista anche Johnny Rotten e Sid Vicious e il punk londinese del 67 erano nichilisti da questo punto di vista. No future, ok. Ma in realtà il nichilismo, nicciano è qualcosa di un po' più serio, ed è una critica dall'interno del pensiero occidentale proprio visto alla luce della critica della dialettica, del rifiuto della dialettica. Consiste delle tre categorie fondamentali con le quali Nietzsche nella genealogia della morale spiega la nascita della cosiddetta morale, che sono il risentimento, la cattiva coscienza e l'ideale ascetico. E quindi capite perché non può risultare tanto simpatico Nietzsche ai cristiani. E quindi per Nietzsche il momento della storia in cui il nichilismo si afferma è esattamente il cristianesimo, sono tutte le religioni, diciamo in particolare tutte le religioni del libro, ma molto più tra queste ovviamente, molto più che non l'ebraismo, sul quale invece spesso Nietzsche ha, nei confronti della Bibbia per esempio, parole di apprezzamento, dell'Antico Testamento, a parole di apprezzamento, è il cristianesimo, perché il cristianesimo significa, che qui bisogna intendersi sui diciamo termini, significa la vittoria del punto di vista dello schiavo su quella del padrone. Che cosa vuol dire per Nietzsche la vittoria dello schiavo? Vuol dire che Nietzsche è uno schiavista, che Nietzsche pensa che tutto... No, semplicemente Nietzsche, la concezione del padrone e dello schiavo di Nietzsche è ovviamente un po' più articolata di come possiamo pensare. Nietzsche chiama padrone l'uomo che Spinoza, 2 secoli prima, avrebbe detto libero, cioè colui libero vuol dire che segue la sua necessità, che sa cosa deve fare, eccetera, eccetera, ma quello comunque che non si lascia guidare da altri esseri umani. Lo schiavo è colui che, attenzione, può essere benissimo che uno sia schiavo per motivi contingenti, congiunturali, indipendenti e anche contrari alla sua volontà, ma in gran parte, per Nietzsche, gli schiavi sono tali perché vogliono esserlo, perché è più comodo per loro essere così, perché è più comodo delegare la propria libertà. È, se voi volete, il modello di Hobbes non, diciamo, rovesciato, visto dall'altra parte. E soprattutto è il modello di Hobbes connotato negativamente in termini valoriali. Mentre Hobbes aveva detto: ma che bello che siamo tutti così, che tutti ci siamo messi d'accordo di toglierci un pochino o tanta o anche tutta della nostra libertà e l'abbiamo delegata al sovrano, al Leviatano, a questo grande corpaccione collettivo che poi c'è la testa, c'è il sovrano, eccetera, che lo fa per tenere, qui siamo tutti difesi, tutti buoni, eccetera, eccetera, dice no, non l'ha fatto così, tu l'hai fatto per trasformare la diciamo te stesso e la collettività di quelli che saranno te, e poi poterti lamentare. Risentimento, la cattiva coscienza, il senso di colpa, tutte le cose su cui, e anche qui quando Amos nelle ultime collezioni vi racconterà la tematica della pastorale, il ruolo del cristianesimo, della confessione, eccetera, eccetera, capirete quanto Foucault sia stato ispirato da questa intuizione seminale sviluppata in tutte le opere di questo periodo di Nietzsche. Terzo, l'ideale ascetico, no? Dice quanto sono cattivi gli altri, quanto sono buono io, guardate come riesco a sacrificarmi e sacrificandomi raggiungo delle vette che chi non si sacrifica non è in grado di raggiungere. È ovvio che ci vuole poco a capire che siamo di fronte a un venditore di tappeti che vende merce avariata. Quindi, nichilismo. E poi, le ultime tre cose, la morte di Dio, anche lì proclamata in vari testi, poi ci sono 7-8 versioni diverse nelle opere di Nietzsche sulla morte di Dio, ma insomma... la morte di Dio non è il semplice prendere atto che il cristianesimo è nichilistico, grazie all'anima. Nietzsche afferma che la morte di Dio è un evento reale, qualcuno lo ha ucciso. Poi dice l'ultimo uomo, dice l'uomo brutto, dice vari, sono vari che hanno ucciso Dio. Insomma, è qualcosa che è, successo. Che cosa ha ucciso Dio? Quello che tanti altri dopo di lui hanno detto, chiamandolo in altri modi, il disincanto del mondo, la modernità, tutto quello che, volete, cioè il togliere al nichilismo cristiano, attenzione, non la sua essenza, non la sua posizione di fondo, ma tutti gli orpelli di cui era, circondato. È per questo che per Nietzsche la morte di Dio da sola non basta. Non basta né averlo ucciso, né dichiarare che è morto, né prendere atto che è morto. Bisogna vedere E qui arriviamo all'altro tema fondamentale, su cui spero che anche qua vediate quanto potete capire da soli quanto Foucault abbia, diciamo, di debito nei confronti di Nietzsche, perché l'evento fondamentale della morte di Dio, se porta con sé l'evento correlato della divinizzazione dell'uomo, è una tragedia, è merce altrettanto avariata di quando, diciamo, Dio stava in trono. Non si può ammazzare Dio perché al posto di Dio ci dobbiamo mettere l'uomo. E l'uomo, attenzione, e qui viene fuori il lato pessimistico, diciamo, quella parte di schopenhauerismo che probabilmente Nietzsche non ha mai superato, diciamo, davvero. C'è anche una certa ambiguità, se molto spesso il nichilismo viene letto e presentato da Nietzsche come un fenomeno storico, altrettanto spesso però viene presentato spesso come un fenomeno inerente alla natura umana, cioè da sempre l'uomo è così, è l'uomo che è così. Non ci sono cristi, non possiamo illuderci di uscire, è l'uomo che ha un fondo nichilistico, è l'uomo che ha un fondo, certamente il cristianesimo è il momento della storia nel quale questo nichilismo emerge nel modo più chiaro, eccetera, eccetera, ma al fondo c'è qualcosa. E quindi che cosa bisogna fare? Bisogna andare oltre l'uomo, Übermensch. Voi capite benissimo che perché io traduco oltre, Uber con oltre e non con super, perché ormai insomma, il termine superuomo è stato uno dei caposaldi della truffa della nazificazione di Nietzsche, ma Nietzsche se fosse vissuto non avrebbe certamente considerato gli ariani di Hitler, Goebbels, Himmler, eccetera, come degli Übermensch, ma come degli Untermensch, come degli esseri ancora più malati di risentimento, di cattiva coscienza e di ideale ascetico, tale quale, se sia pure in modo diverso. Quindi occorre qualche cosa che superi l'uomo, che vada oltre l'uomo, e è qualche cosa naturalmente che l'uomo dentro di sé ha, che cosa è questa qualcosa che l'uomo ha? È la volontà. La volontà la volontà di fare, di realizzare sto cercando i termini giusti, che poi vedo dire una cosa sull'universalismo di Nietzsche, quindi vabbè. E diciamolo allora, perché c'è questo inizio, non ci sono cristi, alcune delle potenzialità della natura umana. Nietzsche crede che esista una natura umana, sa che è composita, sa che forse oscilla nel modo in cui è, però lui pensa che esista. Una delle formule meno famosa purtroppo della morte di Dio o della volontà di potenza, però anche questa che si è diffusa abbastanza in questo periodo, è: l'uomo deve diventare ciò che è, diventare ciò che si è, perché naturalmente Nietzsche tutto questo implica che Nietzsche non abbia un'idea né della verità né dell'essenza come qualcosa di immutabile, eccetera, eccetera. Anzi, la cosa fondamentale per Nietzsche è il divenire, è come si, diciamo, diviene. Ma il divenire non vuol dire superficialmente cambiare idea, cambiare, eccetera. E qui c'è l'altra grande idea, l'altra grande cosa, che è l'eterno ritorno. L'eterno ritorno non vuol dire che le cose continuano banalmente a essere, che girano su se stesse, che si ripetono e sono come sono, eccetera, eccetera, ma è un altro modo di dire divenire ciò che si è. Quando si diviene ciò che si è come se noi fossimo tornati indietro, cioè è come se avessimo recuperato quella sorta di situazione originaria in qualche maniera che diciamo potenziale, chiamiamola potenziale, di apertura al mondo che a poco l'uomo spesso nella vita si autocancella. Questo vuol dire l'eterno ritorno, questo vuol dire divenire ciò che si è, e quindi questo vuol dire l'Übermensch. La cosa fondamentale di cui, su cui spesso i commentatori più banali e anche più truffaldini di Nietzsche non dicono mai, è che l'Übermensch, il momento di nascita dell'oltreuomo, è un momento nel quale, attenzione, ecco perché l'eterno ritorno non è il ritorno dell'identico e la permanenza, perché Nietzsche sa benissimo che nel frattempo l'uomo è, come dire, cambiato, l'uomo, la situazione, tutto. L'operazione fondamentale che deve essere fatta, che non si capisce bene qui, se è, perché Avvolta in Potenza non l'ha mai scritto, forse l'avrebbe, se l'avesse scritto in quell'opera, l'avrebbe messo a fuoco è quella che lui chiama la transvalutazione, cioè la creazione di nuovi valori. Vedete che il nichilismo di Nietzsche non è affatto un nichilismo relativistico nel senso banale della parola relativista, ma tutto è uguale, tutte le robe sono uguali, niente affatto. Nietzsche è convinto che esistano dei valori. E qual è il valore fondamentale per Nietzsche? È il valore dell'azione contro la reazione. Io trovo che un grande merito del libro di Deleuze sia stato questo, cioè quello di avere posto al centro dell'interpretazione di Nietzsche esattamente questa polarità tra forze attive e forze reattive. Questa questione di capire che è l'azione, che è la reazione che genera tutto, genera il risentimento, genera la psicologia, genera tutte le cose che ci ha raccontato Nietzsche, che sono quelle per no. E il momento della transvalutazione è quello in cui finalmente, in qualche modo, questa nuova figura che è partita dall'uomo ma che ha superato l'uomo, riesce a, mettiamola così, instaurare il regno dell'attività, il regno dell'azione, dell'agire, del fare. Questa è la volontà di potenza, questa è la volontà di potenza. Volontà di potenza, non volontà di dominare gli altri, non volontà, volontà di potenza, volere fare ciò che si è capaci di fare. Tutte le volte che qualcuno ci impedisce di fare ciò che noi siamo capaci di fare, uccide noi, certamente, uccide anche un po' se stesso, però uccide. Questo è il fulcro del pensiero di Nietzsche. E va bene. Credo che devo dare un po' la parola, siccome ho 4 lezioni io, ho 3 lezioni di fila. Posso anche permettermi un po' di... No, perché ho già cominciato l'altro, quindi so più o meno cosa devo dirvi la lezione dopo. Allora, vi riassumo ancora una volta, grosso modo, aforisma e poesia. Unità di pensiero e vita, non verità come affermazione astratta e, diciamo, generale, ma costantemente interpretazione. Quindi divenire. Come corollario, che non vi ho detto, questo naturalmente implica in qualche maniera un processo degenerativo della filosofia, che è quello che per Nietzsche era cominciato con Socrate. Rifiuto del concetto della pratica della sostanza, non ci sono sostanze, ci sono solo delle forze attive e reattive, quindi è il gioco tra le forze e il divenire che è l'interessante, che è quello a cui devo guardare, non le cose sono fatte così, quindi seguo questa cosa, eccetera. Quindi capite che siamo già oltre Spinoza, perché Spinoza è un sostanzialista. Volontà di potenza che ha varie facce. C'è una volontà di potenza affermativa, ma c'è anche una volontà di potenza negativa, quindi non è che la potenza sia sempre buona, c'è anche una volontà di potenza, quando la volontà di potenza è dominata dalle forze reattive, allora tu non diventi ciò che sei, diventi ciò che vorresti essere, diventi ciò che ti lamenti di non essere, diventi ciò che dici che gli altri ti hanno impedito di essere, e così via. negazione della, diciamo, dialettica, svelamento della truffa del lavoro del negativo. Il negativo lavora per me, il negativo lavora per te, caro Federico Guglielmo, e come diavolo ti chiamate. Nichilismo, morte di Dio, Übermensch. Insomma, Nietzsche è l'opposto del filosofo dell'unità. Nietzsche è il filosofo della molteplicità, ma non perché la molteplicità sia contrapposta all'unicità, non perché il molteplice sia contrapposto all'uno, è perché l'unità è ciò che caratterizza l'essere in quanto tale, è la molteplicità. Quindi l'unità dell'essere è la vera molteplicità. Non ci deve essere nessuna diciamo dicotomia, nessuna separazione tra Eraclito e Parmenide. Allora, quindi, che dice sia un filosofo del, come dire, divenire, non c'è alcun dubbio. Questo implica anche che Nietzsche sia un, diciamo, coerente continuatore della linea di ricerca degli scettici. Io su questo ho i miei dubbi. In Nietzsche rimane una forte tentazione verso l'universalismo. È un universalismo non di tipo hegeliano, non di tipo schopenhaueriano, non ha tante delle controindicazioni o dei guai che hanno quegli universalismi, però in qualche modo, e infatti qui, in quella che è la parte meno chiara del suo pensiero, però, perché è quella che ha che probabilmente vuole chiarire nella volontà di potenza, ma non è arrivato a chiarire, uno può pensare che ci sia il dubbio che che una volta che questo Übermensch sia arrivato, le forze reattive siano sconfitte una volta per tutte. Una volta che Frodo ha buttato l'anello dentro al Montefatto, siamo a posto. Sauron è stato sconfitto, la storia è finita, andiamo tutti nelle isole dei beati, quelli che possono, quelli che hanno cosa pagato dalla Costa Crociere, gli altri no, facciamo un inchino vicino all'isola, tutto a posto. E la storia finisce. So che si avrebbe torto a Nietzsche se pensassi che molto in Nietzsche va contro questo tipo, ma qualcosa di Nietzsche invece va anche in quella direzione. È possibile che Nietzsche in qualche momento abbia creduto, insomma, e quindi, come dire, abbia ceduto anche lui all'hegelismo, insomma, no? Quindi all'idea di una fine della storia, all'idea in modo molto, come dire, generoso e molto bello, insomma, è possibile che lui sia stato convinto in qualche momento che le forze reattive potevano essere sconfitte definitivamente. Allora, naturalmente uno scettico con il bollino blu non penserà mai questo. E quindi sarà ben consapevole che le forze reattive non si possono sconfiggere, nonostante ciò che è suo dovere imprescindibile, lo farà per tutta la vita, se è una persona onesta, combatterà contro le forze reattive, combatterà contro la dominazione, combatterà contro il dominio, combatterà contro tutte le cose che non gli piacciono della vita, ma non lo farà sulla base di una filosofia della storia, convinto che le isole dei beati ci saranno prima o poi. Allora, quindi forse non è così, forse non vedeva così male. Allora, certo, il Nietzsche di Foucault non può essere complesso, non lo possiamo capire soltanto leggendo questo testo, o adesso però vi voglio parlare di un altro testo. Vi ho già detto varie volte in che modo secondo me Nietzsche era, Foucault era diverso da Deleuze. Foucault non ha mai scritto, vedete, un libro sui filosofi, cioè si è subito messo a fare altre cose, quindi anche lì Per fortuna Deleuze ci ha dato questa cosa, quindi è più facile capire qual è il cioè Deleuze di Nietzsche, lo ha detto in modo chiaro, il suo Nietzsche è il Nietzsche delle forze attive contro le forze reattive, semplifico molto, ma insomma la chiave del libro, per come l'ho capito io, è diciamo questa. È indubbio che Foucault sia stato fortemente influenzato da Nietzsche, che questo testo che esamineremo questa sera e che in parte anche la volta prossima a questo punto sia un testo cardine della sua cosa, però probabilmente il Nietzsche di Foucault dobbiamo, come sempre, come spesso, ricostruirlo attraverso poi altri passaggi, successivi passaggi. Vedremo se il Nietzsche, se il Foucault degli ultimi corsi al Collège de France ci darà qualche indicazione in questo o no. Può essere di sì, può essere di no, ma siccome non me ne sto occupando io, lascio, non voglio però caricare le fragili spalle di Amos, fragili nel senso come le nostre, come quelle di tutti, eccetera, di compiti troppo grossi. Allora, in realtà l'unico altro testo che sono riuscito esplicito a trovare di Foucault su Nietzsche è un testo del 67, in realtà non è soltanto su Nietzsche, è un testo molto breve ed è intitolato Nietzsche, Freud, Marx. E qui torna quella storia dei pensatori del sospetto che vi ho già detto le altre volte, felice o infelice definizione dovuta a Paul Ricoeur. C'era un convegno, che non mi ricordo più bene su quale fosse, nel 64, quindi in realtà il testo viene, cioè tutta questa cosa viene scritta nel 64, è una tavola rotonda, che credo fosse su Nietzsche, però è Marx, insomma, sui pensatori del, diciamo, sospetto. Dopo 3 anni, non è una cosa così strana, escono gli atti, c'erano anche delle, c'erano anche altri, insomma. Allora, siccome qua Foucault, però, come dire, si capisce, voglio solo leggervi 2 o 3, diciamo, cosine, perché secondo me si capisce bene che già che cosa interessa di Nietzsche a Foucault. Lui dice... Voglio fare, siccome c'è questa storia dei pensatori del sospetto, eccetera, ti voglio fare una qualche cosa sulle tecniche di interpretazione in Marx, Nietzsche e Freud. E quindi si potrebbe dire questo, primo. In primo luogo dice, potrebbe venire il sospetto che il linguaggio non dica esattamente ciò che dice. Il significato che si coglie e che è immediatamente manifesto forse non è che un significato minore, che protegge, stringe, malgrado tutto trasmette un altro significato, essendo questo al tempo stesso il significato più forte e il significato di sotto. È quello che i greci chiamavano l'allegoria e la hyponeia. Hyposnus, ciò che sta sotto, diciamo, la mente o l'attività intellettuale. Inoltre il linguaggio fa nascere quest'altro sospetto, che esso ecceda in qualche modo, ma guarda, la sua forma propriamente verbale, e che ci siano ben altre cose al mondo che parlano e che non fanno parte del linguaggio. Dopotutto potrebbe darsi che la natura, il mare, il fruscio degli alberi, gli animali, i volti, le maschere, i coltelli incrociati, tutto questo parli, può darsi che esista un linguaggio che si articola in modo non verbale. Sarebbe questo in modo grossolano il semainon dei greci, di antenato della semiotica. Poi parla di convenienza, simpatia, emulazione, tutte cose che i lettori delle parole e le cose conoscono bene. E poi dice che cosa è successo? Dice Marx, Nietzsche e Freud ci hanno rimesso di fronte a una nuova possibilità di interpretazione, hanno fondato da zero la possibilità di una ermeneutica. Il primo libro del Capitale, testi come La nascita della tragedia e La genealogia della morale, o L'interpretazione dei sogni di Freud, ci mettono nuovamente di fronte a tecniche interpretative. E l'effetto d'urto, la ferita inferta da queste opere al pensiero occidentale dipende probabilmente dal fatto che esse hanno ricostituito sotto i nostri occhi qualcosa che lo stesso Marx chiamava geroglifici. La cosa ci ha messo in una posizione scomoda, perché queste tecniche di interpretazione riguardano noi stessi, visto che noi, che siamo gli interpreti, abbiamo cominciato a interpretare noi stessi con queste stesse tecniche. Con queste tecniche di interpretazione dobbiamo anche interrogare a ritroso quegli interpreti che furono Freud, Nietzsche e Marx, e di modo che siano di continuo rimandati in un eterno gioco di specchi. La cosa più interessante che dice su Freud, su Nietzsche, è la seguente. Adesso si fa alcune domande fondamentali, la prima delle quali è: Marx, Nietzsche e Freud non hanno modificato profondamente lo spazio di distribuzione nel quale i segni possono essere segni? Lo spazio di distribuzione nel quale i segni possono essere segni? Penso in modo particolare alla lunga disputa che Nietzsche non ha mai cessato di avere con la profondità. In Nietzsche c'è una critica della profondità ideale, della profondità di coscienza, che gli denuncia come un'invenzione dei filosofi. Questa profondità sarebbe ricerca pura interiore della verità. Nietzsche mostra in che modo implichi la rassegnazione, l'ipocrisia, la maschera, di modo che l'interprete, quando ne percorre i segni per denunciarli, deve scendere lungo la linea verticale e mostrare che questa profondità dell'interiorità in realtà è altro da ciò che essa dice. Di conseguenza bisogna che l'interprete scenda in basso, che sia, come egli dice, in Aurora, dice di Sanota, il bravo rovistatore dei bassi fondi. L'interprete deve essere, scrive Nietzsche, in Aurora, un bravo rovistatore. Bisogna ravanare, si dice qui a Milano, no? Rovistare nei bassi fondi, perché sono i bassi fondi che è l'interiorità, il luogo della truffa, che poi emerge come travestimento, come maschera, come, se volete, inautenticità. Ma perché non c'è nessuna autenticità, non c'è nessuna interiorità, cioè è tutto un gioco, soltanto il dialettico può pensare che attraverso questi vari giochi si ricava e si recupera la cosiddetta interiorità. In realtà, quando si interpreta, si può seguire questa linea discendente solo per rendere la scintillante esteriorità che è stata ricoperta e sotterrata. Il fatto è che se l'interprete deve andare egli stesso sino in fondo come un rovistatore, il movimento dell'interpretazione, al contrario, è quello di un'ascesa via via più alta che lascia perennemente stagliarsi su di essa in modo sempre più visibile la profondità. E ora la profondità è restituita come segreto assolutamente superficiale, in maniera tale che il volo dell'aquila, l'ascensione della montagna, tutta questa verticalità così importante in Zarathustra, per esempio, è in senso stretto il capovolgimento della profondità, la scoperta che la profondità era solo un gioco e una piega della superficie. Man mano che il mondo diventa più profondo sotto lo sguardo dell'interprete, ci si accorge che tutto quello che ha esercitato la profondità dell'uomo era un gioco da ragazzi. Non avevo ancora letto questo pezzo di Foucault quando vi ho fatto una delle prime presentazioni, molto stupida forse, del rifiuto di Foucault della posizione archeologica di Foucault. Vi ho detto, guardate che in genere la critica, la cosa scava, in questo caso Foucault no, Foucault si mette di lato o forse si mette in alto. Ecco, qua mi pare che Foucault dica qualcosa del genere, lo dice meglio di me, come è ovvio, ci vuole poco, però c'è questa idea, quindi no, vai sotto, no, in realtà sei in alto, sei messo in alto e dall'alto riesci a scoprire che non esiste alcuna. Il secondo tema che viene detto qua è la questione dell'incompiutezza, che secondo Foucault c'è in tutti e tre, ma più in Nietzsche e in Freud che non in Marx, e cioè il fatto che l'interpretazione sia diventata un compito infinito. Non c'è mai fine all'interpretazione. poi ovviamente parla per Freud, la adora, Freud mi sembra quasi ovvio. È evidente anche in Nietzsche che l'interpretazione è sempre incompiuta. Cos'è per lui la filosofia se non una sorta di filologia sempre in sospeso? Questa mi pare bella. Una filologia senza termine, spinta sempre più lontano, una filologia che non sarà mai definitivamente fissata. Perché? Perché come lui stesso sostiene in Al di là del bene e del male, perire per l'assoluta conoscenza potrebbe ben far parte del fondamento dell'essere. Eppure in Ecce Homo ha dimostrato quanto fosse vicino a questa conoscenza assoluta che fa parte del fondamento dell'essere. Stessa cosa nel corso dell'autunno del 1888 a Torino, cioè quando scoppia la sua cosa. Mi permetterete di fare un riferimento autobiografico alle cose che sto facendo adesso e che sto studiando adesso e che credo siano nel corso che sto facendo al biennio di Brera, non a quello di Nava. Sto esaminando la tesi di alcuni linguisti americani, che non ho tempo adesso di argomentarvi bene, vi prego di darmi un po' di, come dire, fiducia, non è così stupida come può sembrare, come ve la spiego adesso, ma che insomma in estrema sintesi dice: l'essere umano è la specie Homo sapiens, è una specie condannata all'estinzione, non abbiamo eredi, non ci sarà nessun'altra specie che deriverà da noi e noi prima o poi ci finiremo. E perché? Esattamente perché parliamo, esattamente perché abbiamo il, diciamo, linguaggio. Mi pare che una tesi di questo tipo, con tutto quello che si porta dietro, cioè che è con la drammaticità, ma al contempo con, non lo so, forse è più interessante avere tra le mani uno strumento così autodistruttivo, come secondo questi linguisti sarebbe il linguaggio, piuttosto che non averne nessuno, no? O piuttosto che averne. Però non vi pare che già Nietzsche ci fosse arrivato in qualche modo a una tesi del genere? Perire per l'assoluta conoscenza potrebbe ben far parte del fondamento dell'essere. Quindi infatti adesso che sto studiando forse un po' per la prima volta Nietzsche, mi sto segnando tutte, e sono varie, già ne ho prese già 3 o 4, tutti i passaggi in cui Nietzsche dice una cosa del genere, cioè la conoscenza porta con sé, non c'entra qua l'istinto di morte di Freud, è una cosa molto diversa, è una cosa che fa parte del meccanismo, cioè conoscere implica da un certo punto di vista esaurire prematuramente le possibilità, esattamente come fa il linguaggio, esaurire prematuramente le possibilità, perché vuol dire certo che ci sarà, però attenzione, non è come l'essere che è va bene, insomma, basta su questo, su questo breve testo. Allora, torniamo al testo del 71, del Nietzsche, la genealogia e la storia. Oggi faremo non più, credo, di un paio di capitoletti. Allora, la genealogia è grigia, meticolosa, pazientemente documentaria, lavora sopra i cammini ingarbugliate, raschiate e più volte riscritte. Va bene, è abbastanza nietzscheano questo, sì. Non solo perché Nietzsche era un filologo di origine, ma anche perché Nietzsche non si può dire che l'abbia mai fatto davvero questo lavoro, Foucault sì che l'ha fatto, questa è una descrizione del lavoro diciamo filosofico che Foucault aveva già cominciato a fare con la storia della follia, che poi farà che ha sempre fatto per tutta la sua vita, insomma. Però c'ha una logica come dire nietzscheana. La genealogia esige la minuzia del sapere, un gran numero di materiali accumulati e pazienza. Le sue costruzioni ciclopiche non deve costruirle a colpi di errori letificanti, e qui è Nietzsche che viene citato. Le costruzioni ciclopiche stanno nella Gaia Scienza, ma di verità piccole e non appariscenti che furono trovate con un metodo severo. Questo sta in Umano troppo umano, all'inizio di Umano troppo umano. In breve, un certo accanimento della erudizione. La genealogia non si oppone alla storia come la vista altera e profonda del filosofo allo sguardo di talpa del dotto. Si oppone al contrario al dispiegamento metastorico dei significati ideali e delle indefinite teleologie. Si oppone alla ricerca dell'origine. Il secondo capitolo obiettivamente richiederebbe qualche almeno minima conoscenza della lingua tedesca. Io posso solo spartire con voi quella poca che ho, e la spartisco volentieri, ma insomma, quindi perché a questo punto è posta la questione dell'origine. E allora Foucault, proprio perché lavora sulle verità piccole e non appariscenti che furono trovate con metodo zero, va a fare le pulci a vedere quali termini tedeschi usa Nietzsche per indicare l'origine, e prevalentemente lavora su quasi tutti i testi di Nietzsche della maturità, quindi la Gaia Scienza, Aurora, poi il Crepuscolo degli Idoli, eccetera, eccetera, Umano troppo umano, ma soprattutto sulla genealogia della morale, che è uno dei testi più citati, perché non so se c'è il nome genealogia, ma effettivamente, allora lui però lo cerca in tutti i testi di Nietzsche. Cioè, si trovano in Nietzsche due usi della parola Ursprung, e allora qua bisogna, non so, voi non vedo che nessuno di voi c'ha il testo sotto mano, quindi ve lo dovete andare a cercare a casa e vi dovete ricordare quello che vi ho detto io, o se volete prendere appunti per appunto. Allora, Ursprung è più o meno il termine tedesco per origine, e deriva dalla radice nominale sprung, che corrisponde al verbo springen, che vuol dire uscire fuori, ma tumbalzo, saltare. Springen è, diciamo, saltare, quindi lo sprung è un salto. Il prefisso ur è la parolina, il prefisso che in tedesco indica tutte le cose originarie avvenute. Per esempio, il primo Faust, la prima versione del Faust si chiama Ur-Faust di Goethe, Ur. Allora, così il tedesco dice, almeno dal punto di vista, origine. Per noi è un po' diverso, origine, non è proprio, la nostra origine non salta, non salta, perché orio, sorgo, è il verbo latino orio, se non vado errato, un verbo deponente, che vuol dire nasco, è il fiume, sì, si può dire che il fiume sorge, insomma. Però attenzione, lo spring in tedesco è anche il ruscelletto, è anche il fiume, quindi c'è qualcosa di simile, però insomma il parlante tedesco sente springen, ursprung, eccetera, e nella sua, cioè, salta, la gente sa, c'è, cioè, un salto, balza fuori, balza fuori, balzare fuori, questa è l'origine per i tedeschi. Allora, che non è l'unico, però, dice il termine. Ci sono due usi in Nietzsche della parola Ursprung. Il primo non è caratterizzato, lo si incontra in alternanza con termini come Entstehung, Herkunft, Abkunft, Geburt. La genealogia della morale, per esempio, adesso vi parlerò di ognuno, perché se non sapete cosa vuol dire questa roba qua, e poi non ci capite nulla. La genealogia della morale, per esempio, vedete che è già arrivato lì, parla a proposito del dovere o del sentimento della colpa tanto della loro Entstehung quanto del loro Ursprung. Allora, Entstehung è femminile e Ursprung è maschile. Nella Gaia Scienza si parla a proposito della logica e della conoscenza sia di una Ursprung, sia di un Entstehung, sia di una Herkunft. Allora, siccome poi parlerà, farà una cosa di questo, bisogna vagamente capire cosa sono i termini. Entstehung. Allora, Stehung è un sostantivo che da solo non esiste, però derivante dal verbo stehen, S-T-E-H-E-N, che è lo stand inglese. Infatti il suo passato credo sia stand. Allora, Ent è un prefisso di uso più comune che non ur, e anche che non ab come vedo dopo, e che non saprei dirvi chiaramente che cosa significa, insomma. Però allora, una Entstehung figurativamente non è qualcosa che salta fuori come un Ursprung, è qualcosa che si è, a un certo punto si erge. Ops, c'è un Entstehung, questa è Gegenstand, che è oggetto, è peggio, Jäger proprio contro. Ent, Entstehung, è uscito fuori, eccolo lì. È più pacifico Entstehung di. Herkunft, non parliamone, Abkunft sono concetti molto più astratti, non hanno una cosa figurativa di questo tipo. Kunft, non ho idea se qualcuno sa meglio di me da quale radice possa derivare, non ho fatto uno studio molto approfondito, mi sono limitato a ricordare il mio misero tedesco liceale, a cercare di capire le cose che mi ricordavo da allora, quindi può darsi che se cerco trovo, però... allora, che io sappia, Kunft, l'unica altra parola nella quale si trova è Zukunft, che vuol dire futuro. Zukunft, o anche Kunft da solo, anche Kunft, quindi può essere che sia una roba di questo tipo. Però se tu gli metti davanti un Herr, allora Herr non c'entra niente con lo Herr inglese, lo Herr veramente è la particella dell'origine, eh? Herausgeben, dare origine, editare, pubblicare, dare origine a qualcosa, heraus, heraus, tirare aus, fuori, tirare fuori da, quindi her. Quindi Herkunft è qualche cosa che ha a che fare col tempo, però è, ecco, il senso di origine. Abkunft, anche ab è un prefisso poco caratterizzato, cioè in tante cose, è sempre col Kunft però, quindi Geburt è il più facile perché vuol dire nascita, vuol dire nascere, è come il to be born inglese. Quindi allora, da un certo punto di vista dice, ci sono alcuni passi, dice in cui questi termini vengono usati più o meno indifferentemente. A me sta roba mi piace, non so, insomma, come dire, rivelo le mie perversioni, ma è un pezzo che mi piace tantissimo, perché quando uno va lì e va a fare a togliere la buccia alle parole, cioè, è una delle cose che ho più divertenti, ma insieme anche più... Però c'è un altro uso che è caratterizzato. Accade infatti che Nietzsche la ponga in opposizione a un altro termine. Il primo paragrafo di Umano troppo umano mette l'una di fronte all'altra l'origine miracolosa, Wunder Ursprung. Wunder Ursprung è un'origine miracolosa che cerca la metafisica cerca la Wunder Ursprung, cerca una Ursprung la metafisica, non può cercare, adesso vedremo perché, un Herkunft, un Abkunft, eccetera. E le analisi di una filosofia storica che invece pone domande über Herkunft und Anfang, sopra lo Herkunft, l'origine nel senso della eredità in qualche modo, und Anfang, Anfang è l'inizio, Anfang è iniziare. Accade anche che Ursprung sia utilizzato in modo ironico e ingannevole. In che consiste, per esempio, questo fondamento originario, Ursprung, della morale che si cerca da Platone in poi? E dice Nietzsche, inesecrabili piccole conclusioni, esecrabili piccole conclusioni, pudenda origo. Per chi non sa il latino, un'origine che dà vergogna, di cui ci si deve vergognare, pudenda origo, origo origini. O ancora, dove bisogna cercare quest'origine della religione? Di nuovo è Ursprung qua l'origine, che Schopenhauer poneva in un certo sentimento metafisico dell'aldilà. Semplicemente in una invenzione, Erfindung, finden, trovare, in un gioco di prestigio, in un artificio, Kunststück, Stück pezzo, Kunst arte, artificio, un pezzo artificioso. In un segreto di fabbricazione, in un'operazione di magia nera, nel lavoro degli Schwarzkünstler. Gli Schwarzkünstler sono gli alchimisti che operano sul nero, sulla materia. Schwarz, nero, Künstler, artista, artigiano. Per l'uso di tutte queste parole, per i giochi propri al termine Ursprung, uno dei testi più significativi è la prefazione della genealogia. All'inizio del testo l'oggetto della ricerca è definito come l'origine dei pregiudizi morali. Il termine usato allora è Herkunft. Quando Nietzsche dice, in quest'opera parlerò, adesso vediamo se la trovo, me ne sono segnata un'altra, quindi ci metto troppo a trovarlo, ma insomma, la preparazione della genealogia comincia così: siamo ignoti a noi medesimi, noi uomini della conoscenza, noi stessi a noi stessi, e questo è un fatto che ha le sue buone ragioni. I miei pensieri sull'origine, Herkunft, dei nostri pregiudizi morali, già che si tratta di essi in questo scritto polemico, hanno ricevuto la loro prima sobria e provvisoria espressione in quella raccolta di aforismi che porta il nome Umano sopra umano. In effetti la genealogia della morale è lo sviluppo di una sezione di Umano troppo umano, scritta però non in forma aforistica in questo caso. Quindi il termine è Herkunft. Poi Nietzsche ritorna indietro, fa la storia di questa indagine nella sua vita, ricorda il tempo in cui scriveva in bei caratteri la filosofia e si chiedeva se bisognasse attribuire a Dio l'origine del male. Dice, quando ero giovane ho pensato che forse era Dio l'origine del male. Domanda che ora lo fa sorridere, di cui dice appunto che era la ricerca di una Ursprung, di un Ursprung. La stessa parola per caratterizzare un po' più avanti il lavoro di Paul Rée. Paul Rée è la persona che scrisse l'origine, un amico di Nietzsche che scrisse l'origine dei sentimenti morali, pubblicato prima della genealogia della morale di Nietzsche, di cui Nietzsche fu molto amico, poi ruppe, che è probabilmente più famoso perché è quello che presentò a Nietzsche la ormai stranota Lou Andreas Salomé, cioè questa donna che gli fece insomma un po' girare la testa, pare, a Nietzsche, che comunque Nietzsche, siamo sicuri, chiese in sposa ben due volte, ricevendosi due bei no dalla signorina in questione, che era più saggia di lui. Domanda che ora lo fa sorridere, di cui dice appunto che era una ricerca di Ursprung, la stessa parola per caratterizzare un po' più avanti il lavoro. Quindi Paul Rée dice, lui cerca l'Ursprung, come me quando ero più giovane e non capivo bene le cose. Poi evoca le analisi propriamente nietzscheane che sono cominciate con Umano troppo umano. Per caratterizzarle parla di Herkunft ipotese, ipotesi sull'origine, ma non come Ursprung ma come Herkunft. Ora, qui l'uso della parola Herkunft probabilmente non è arbitrario, serve a designare parecchi testi di Umano troppo umano consacrati all'origine della moralità, dell'ascesi, della giustizia e della punizione. Eppure in tutti questi passi la parola che era stata utilizzata allora era Ursprung, tanto per dire che Nietzsche sa fare, Foucault sa fare anche il filologo. Come se all'epoca della genealogia, e a questo punto del testo, Nietzsche volesse far valere un'opposizione tra Herkunft e Ursprung, che una decina d'anni prima non aveva fatto intervenire. Ma subito dopo aver utilizzato in modo differenziato questi due termini, Nietzsche ritorna negli ultimi paragrafi della prefazione ad un uso neutro ed equivalente. Allora, il capitolo va avanti ancora per un tot di pagine. Comunque adesso ve lo riassumo. Perché chiudiamo con questo secondo capitolo la serata di oggi, e la prossima volta parlerò meno del coso e finirò, perché allora è chiaro che c'è tutta questa roba. A che cosa gli serve, insomma, Foucault? Gli serve per dire ci sono vari modi di ricercare l'origine delle cose. A noi genealogisti non ci interessa l'Ursprung, questo lo lasciamo ai metafisici. Le origini che balzano fuori, le origini che affermano se stesse, e perché gliela lasciamo a loro? Perché l'Ursprung è l'origine dei metafisici? Perché è una Ursprung in cui l'oggetto, la cosa, ciò che deve avere origine, viene fuori già bello che formai, già bello pronto. È come Atena, non dice così, questo ce lo aggiungo io, è come Atena che salta fuori tutta bella armata dalla testa, o secondo altre versioni, dalla coscia di Zeus. Questa è la Ursprung. Quelli che si interessano alla Ursprung sono non a caso gli stessi che si interessano alla essenza delle cose. Allora l'Ursprung è un'origine essenzialista, è un'origine solenne, è un'origine che viene, dice Foucault, prima della caduta, prima del corpo, prima del mondo e prima del tempo, è dal lato degli dèi, e a raccontarla si canta sempre una teogonia. Ma l'inizio storico è basso, non nel senso di modesto o di discreto come il passo della colomba, ma derisorio, ironico, atto a distruggere tutte le infatuazioni. Aurora, si cercava di pervenire al sentimento della sovranità dell'uomo indicando la sua origine divina. Questa ora è diventata una via proibita perché alla sua porta c'è una scimmia. L'Ursprung sarebbe il luogo della verità. Qualche cosa che Ursprint, Sprint Ur, no, cioè, lo attaccano sempre perché non si può staccare Ur, qualcosa che sorge nel senso di Ursprung è qualcosa di vero. Accidenti, è uscito fuori, è come Atena. È l'autentica vera figlia di Zeus, è quella che meglio di altri è tutta suo padre, è tutta suo padre, ha tutta la saggezza di Zeus, ha tutta l'accidentaccio, eh. E invece l'essenza delle cose, ci dice Foucault, fu costruita pezzo per pezzo, a partire da figure che le erano estranee. L'origine delle cose è casuale. Ecco allora la Herkunft, la Abkunft, il più neutro Anfang. Le cose cominciano, certo, ma a parte che se non andiamo in cerca dell'essenza miracolosa, è molto difficile dire quando qualche cosa è davvero cominciato. È un processo che la fa cominciare, eh? L'età moderna è cominciata con la scoperta dell'America, 14 ottobre 1492. Vabbè, insomma, va bene, dobbiamo fare il quiz, dobbiamo mettere le cose, quindi mettiamo anche questo. Ma è ovvio che nei processi è impossibile segnare il momento originale, il momento magico, la verità. Fare la genealogia dei valori, della morale, dell'ascetismo, della conoscenza, è Foucault questo, Non sarà dunque mai partire alla ricerca della loro origine trascurando come inaccessibili tutti gli episodi della storia. Sarà al contrario attardarsi sulle meticolosità e sui casi degli inizi, prestare un'attenzione scrupolosa alla loro risibile cattiveria, aspettarsi di vederli sorgere, maschere finalmente cadute col volto dell'altro, andare a cercarli senza pudore là dove sono, frugando i bassifondi, l'aveva già detto in Aurora. Lasciare loro il tempo di risalire dal labirinto dove nessuna verità li ha mai tenuti sotto la sua guardia. Il genealogista ha bisogno della storia per scongiurare la chimera dell'origine, per scongiurare la chimera dell'origine. Un po' come il buon filosofo ha bisogno del medico per scongiurare l'ombra dell'anima. Il prossimo tema che affronteremo è quello del rapporto tra questo tipo di provenienza, di origine come provenienza, quindi come Herkunft, e il corpo. Vedremo che il corpo non può avere un Ursprung, ha ovviamente un Einstellung, perché il corpo, non che ne pensassero i greci, non nasce. E cominceremo, vedremo come per Foucault anche questo, come per Foucault, come anche per Nietzsche, questo tema della nascita, della nascita intesa nel senso di formazione, di organizzazione, di auto-organizzazione, si lega col tema della forza intesa nel senso di quel poco che Steve le aveva fatto capire qualcosina, nel senso nietzscheano. Forza è uno dei concetti fondamentali, diciamo, come dire, di Nietzsche. Forza attiva, e forza attiva è la forza, quella che conta. Va bene, quindi per questa sera vi mollo, vi lascio, studiate, andate a cercarvi questi primi due paragrafi di questo testo. La prossima volta io vado avanti col 3 e poi vado avanti, no, sì, insomma, finisco la microfisica, Nietzsche, la genealogia della storia, sì. Ho trattato i primi due paragrafi o capitoli, come si chiama, quindi pochissime pagine. La prossima volta finisco Nietzsche, la genealogia della storia, cioè faccio tutti gli altri. Sta nella dispensa questo, sta nella dispensa, sì, sta nella dispensa. Non c'è più, credo, le cose. E poi cominciamo il corso al Collège de France, bisogna difendere la società. Buona serata.